Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. Ben tornati dalle vacanze pasquali per chi le ha avute e ne ha goduto. I temi di questa giornata economico-finanziaria, vedo già molti rido perché devo ancora iniziare il programma, molti messaggi su quanto ha scritto Beppe Grillo, sul sottoscritto sul suo blog sull'euro. Vabbè, risponderemo, perché al di là così delle offese di carattere personale, ci sono delle inesattezze, delle castronerie proprio, ma non perché noi riteniamo che sarebbe una follia uscire dall'euro per l'Italia, mentre riteniamo che sia stata gestita male l'Europa a trazione tedesca. Si può criticare la gestione dell'Europa e del patto di stabilità senza chiedere la follia di uscire dall'euro, ma perché ci sono proprio delle castronerie pure, perché uno può immaginare il mondo come vorrebbe, però poi deve anche confrontarsi con la realtà dei fatti. Abbiamo dei casi in cui alcuni paesi, anche recentemente la Russia, sono stati obbligati a svalutare e quindi la loro valuta ha perso di forza, e abbiamo visto le conseguenze quali sono. Poi uno può immaginare tutte le cavolate che ho letto sul blog di Grillo, ma un conto è raccontare la favola e un conto è vedere quello che capita nella realtà dei fatti quando un paese svaluta la sua valuta, ok? Il rublo, il rent sudafricano 6-7 anni fa, vediamo che cosa capita ai tassi di interesse, ai mutui, al PIL. Poi uno può immaginare che il mondo sia fatto di pan di zucchero e cioccolata, ma bisogna anche essere onesti quando si fanno le descrizioni. Comunque, vi arriviamo tra un secondo, ma ripeto, non me ne frega nulla degli insulti, già diciamo siamo abbastanza allenati, ma delle inesattezze, delle castronerie di carattere economico, ma ci mancherebbe. Allora, dopo di che, i temi di questa giornata economico-finanziaria, il Consiglio dei Ministri di oggi, che prende tempo, sposta tutto a venerdì, deve varare appunto entro venerdì la parte più delicata, ossia il documento economico-finanziario, quello che tra le altre cose avrà anche i tagli alla spesa della pubblica amministrazione quantificata in 10 miliardi di euro per evitare che scattino le famose clausole di salvaguardia, cioè aumenti automatici dal 1 gennaio di IVA e accise pari a 16 miliardi di euro. Scattano in automatico perché questo è l'accordo che abbiamo preso con Bruxelles. Da questo punto di vista faccio notare che sono circolate anche nel corso della settimana e ieri soprattutto indiscrezioni di un governo che potrebbe venire o chiedere all'Europa di venire a patti e di posticipare il pareggio di bilancio almeno al 2018, però nulla di ufficiale vi è ancora stato. Per quello che riguarda la linea, spesso ci siamo permessi modestamente di dire che sarebbe una linea da perseguire, cioè se un paese come l'Italia sta facendo, come ancora di più sta facendo la Spagna, si mette a fare riforme e cerca di raddrizzare i conti, dagli più tempo, perché pareggiare il deficit, cioè il deficit a zero nel 2017, nel 2018, nel 2019 non cambia niente dal punto di vista della sostenibilità di un paese, cambia molto invece sul fronte delle politiche che puoi attuare per i tuoi cittadini. Comunque ne parleremo nella seconda ora del programma. Per ora la crescita economica viene fissata allo 0,7%, mentre nel 2016 dovrebbe salire all'1,3-1,5%. E ascolteremo anche alcuni dei passaggi del Premier Matteo Renzi in conferenza stampa. Ha detto che nel 2015 vi sarà una riduzione di tasse per 21 miliardi e che le clausole di salvaguardia le abbiamo totalmente eliminate dal documento economico finanziario. Partiremo con la Grecia, così ci riagganciamo anche al tema iniziale. E la Grecia perché? Perché è una settimana cruciale, e ossia c'è un tour del governo greco nelle capitali mondiali. Ieri a Washington il ministro delle finanze Varoufakis, che ha parlato anche col direttore generale del Fondo Monetario Christine Lagarde, rassicurandolo, ha detto che pagheranno le tranche. Ancora domani e giovedì Tsipras sarà a Mosca. C'è trapelato un'ipotesi di accordo o meglio di una fornitura di gas agevolata, in realtà c'è anche molta tattica. Il 9 aprile deve restituire i primi 460 milioni della tranche al Fondo Monetario, il 14 aprile deve rimborsare 1 miliardo, il 17 aprile deve rimborsare 1 miliardo e 400 milioni. Questo per quello che riguarda la Grecia. La borsa invece come va oggi nella giornata di, diciamo così, riapertura? Più 1,60% Milano, in linea con Francoforte più 1,5%, e Parigi più 1,30%, Londra più 1,94%, l'America più 0,50%, tra i titoli Saipem molto forte più 6,20%, A2A più 4,30% come Tenaris, il 3,70% lo guadagna Eni, il 3,40% è rialzo anche di Azimut, e il 2,80% quello di Mediolanum di UbiBank, il 2,20% quello di Mediaset. Il fronte opposto invece è rappresentato da Fiat meno 1,1% e Popolare Emilia Romagna meno 0,40%, euro a quota 1,08. Parleremo anche dell'Expo, dei ritardi sui lavori e dei costi e delle penali, tema che abbiamo solo toccato venerdì, poi per mancanza di tempo ho dato appuntamento a oggi. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, dove trovate anche la nostra risposta, diciamo così, più articolata alle, ma non mi dispiacciono le battute di Beppe Grillo, ma figuratevi gli insulti, uno ci passa sopra. No, la cosa veramente assurda è leggere castroneria dal punto di vista economico, non perché qualcuno abbia la scienza infusa, ma perché la storia ci dice che cosa capita quando un paese svaluta. Non è che non è mai successo che un paese debba svalutare. Imbarchi debito, imbarchi tassi di interesse altissimi e via così. E se il tuo sistema industriale non è competitivo, a svalutare con il costo del lavoro della Cina, del Vietnam, del Brasile, ti serve a gran poco, non è più l'Italia degli anni 90, quando appunto Beppe Grillo faceva il comico. Allora, notizie in breve. Anche molti commenti sulle dichiarazioni di Renzi, 21 miliardi meno di tasse, vedremo. Per ora noi ci siamo limitati a dare le cifre ufficiali, quelle dell'Istat, dove la pressione fiscale nel 2014 è leggermente, ma è aumentata in incidenza sul PIL. Perché questo? Perché è vero che a livello nazionale la tassazione per chi ha avuto gli 80 euro è un po' calata, sulle imprese quest'anno il governo prevede un po' di taglio di IRA per la decontribuzione, però bisogna capire anche cosa succede alle tasse locali e altre imposte, perché se aumentano poi le addizionali è chiaro che il conto complessivo è un aumento complessivo della pressione fiscale. Altre notizie in breve, al di là della Grecia, dell'Expo e appunto della manovra del governo. Per quello che riguarda invece i dati relativi al nostro paese, un attimo solo, voglio prima citare il Fondo Monetario Internazionale, perché ha detto attenzione, la crisi ha rallentato la crescita mondiale, fin qua siamo alle banalità. La crescita potenziale non sta tornando ai livelli pre-crisi. E poi per quello che riguarda gli investimenti privati sono ancora al palo, sempre nel suo World Economic Outlook. L'inflazione in Russia, visto che fra un attimo ne parleremo, ha toccato il livello record del 17%, il livello più alto dal 2002. Allora, vedo che c'è chi dice ma cosa c'entra la Russia, non esporta merci come noi. Beh, esporta il petrolio, no, ma attenzione, il tema è, arriviamoci subito dai all'euro, tanto vedo che il tema è, si può dire che uscire dall'euro, o quindi avere una valuta più debole, svalutare, non comporti danni sui tassi di interesse? Allora, la prima Domanda è: perché i greci, nemmeno i greci, nemmeno Tsipras, chiedono l'uscita dall'euro? Loro che non hanno un debito mostruoso come abbiamo noi, noi da soli abbiamo metà del debito europeo, perché non lo chiedono? Perché si rendono conto che il salto nel buio sarebbe problematico. Però devo andare con ordine. Allora, nel blog di Beppe Grillo, il sottoscritto viene attaccato perché difende l'euro. Allora cerchiamo di capire qual è il ragionamento che viene fatto al di là degli insulti e poi i dati fattuali, cioè non è che noi sappiamo perché abbiamo una sfera di cristallo, perché ci sono stati casi pesantissimi in cui i paesi hanno dovuto svalutare del 50%. Immaginiamo che la liretta nuova avrebbe metà del valore che ha l'euro adesso, va bene, una svalutazione del 50%, e vediamo che cosa succede a un paese quando svaluta. Non è che non sia mai successo, caro Grillo. Noi tra l'altro, per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle, per quello che parlo di Grillo, abbiamo spessissimo ricordato, e per onestà intellettuale converrebbe che lo ricordassero anche loro, cosa hanno fatto i parlamentari del 5 Stelle per quello che riguarda i soldi della politica, le iniziative dei 5 Stelle per denunciare gli sprechi della pubblica amministrazione. Quindi siamo assolutamente in linea con quello. Poi quando leggiamo certe cose un po' i capelli ti si rizzano. È un mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Allora. Dunque, vabbè, al di là del fatto che dica che il sottoscritto è uno che prende in giro gli ascoltatori quando non è d'accordo con loro e rispondo, si faccia una domanda e si dia una risposta alla Marzullo, non mi sembra. Ma andiamo nel merito. Grillo sostiene, attaccando il sottoscritto, che in questo momento l'euro non è così importante perché tanto esportiamo più fuori dall'euro che dentro l'area euro, e quindi il problema della svalutazione, a parte che non capisco il ragionamento, noi abbiamo più o meno un export che è al 50% nell'area euro e al 50% extra dall'area euro, ma se tornassimo alla liretta per noi tutto sarebbe extra, ok? Per cui abbiamo una svalutazione. Allora il grande approccio di chi dice tienti la liretta, torna alla liretta, gli direi: riusciresti a esportare di più? Faccio notare banalmente che siamo riusciti a esportare nonostante un euro così forte, perché un conto è che l'euro fosse troppo forte e adesso è a un livello di cambio più ragionevole e più corrispondente alla potenza economica tra Stati Uniti e area euro, 1,08 oggi. A 1,40 era sopravvalutato, ma non per colpa degli europei, perché gli Stati Uniti facevano una politica, come Grillo sa benissimo, di quantitative easing iniziata nel 2009, che portava a pompare 130 miliardi di dollari al mese, e quindi svalutavano, visto che Grillo conosce bene i meccanismi con cui le valute si svalutano, svalutava il dollaro e l'euro per converso andava a 1,40, che era un livello troppo alto. Ma un conto è dire che la temperatura del termometro è troppo alta, è un conto è buttare via il termometro, l'abbiamo spiegato in tutti i modi. L'euro è il termometro, adesso a 1,08 è sicuramente più corrispondente alla forza dell'area economica europea. Ma continua Grillo, non è il solo, il nostro debito in euro non conta nulla perché il nostro debito è emesso sotto la legge italiana per il 94%, sarebbe un vantaggio per l'Italia in caso di svalutazione, perché avremmo, qui siamo alla follia. Allora, noi abbiamo un debito espresso in euro, ok? E se lo trasformassimo in lire, ponendo anche il 50%, il nostro debito pubblico aumenterebbe del 50%. C'è un piccolo problema: noi non abbiamo solo un debito emesso in euro, abbiamo anche dei debiti privati dei gruppi italiani emessi in euro che improvvisamente verrebbero aumentati al 50%, vogliamo dire al 50%. C'è anche un piccolo problema che si chiamano mutui a tasso variabile. Allora, cosa è successo nei paesi che hanno dovuto svalutare, delle volte perché obbligati? Prendiamo l'ultimo caso, la Russia. Lasciate stare che la Russia esporti petrolio e noi esportiamo invece le 4A del Made in Italy. Il rublo si è svalutato fino al 50%, ok? La banca centrale russa, per evitare un problema che forse Grillo dimentica e anche Salvini lo dimentica, si chiama fuga di capitali. Quando la tua valuta inizia a deprezzarsi, è successo in Argentina, è successo in Sudafrica, è successo in Russia, i casi che abbiamo davanti, La gente che ha i soldi nel conto corrente, sapendo che questi soldi valgono sempre meno e si svalutano, li porta all'estero, ok? Allora, per bloccare la fuga di capitali, le banche centrali iniziano a aumentare il costo del denaro, cioè i tassi di interesse, perché così è più conveniente tenerli, rende di più. E infatti la banca centrale russa, non più tardi di novembre, ha portato i tassi di interesse fino al 18% per cercare di evitare che i russi portassero i soldi in Svizzera, nell'euro o in dollari, ok? Questo lo fanno tutte le banche centrali quando inizia a esserci un problema di svalutazione. Si legga, Grillo, la storia economica dal dopoguerra in poi e mi dica se c'è un caso al mondo in cui, a fronte di una brusca svalutazione della valuta locale, della divisa locale, le banche centrali non hanno iniziato ad aumentare i tassi di interesse per evitare la fuga di capitali. In alcuni casi, vedi il caso argentino, hanno anche bloccato i conti correnti perché tanto fuggivano i capitali che hanno dovuto fare il famoso corraglito, se non ricordo male il nome, e cioè non potevi prendere più di una certa cifra dal tuo conto corrente. Va bene? Non è che lo diciamo noi, Grillo, è successo nella storia. Se poi non le piace la storia, si inventi la storia parallela. Il costo del denaro che va al 18%, cosa vuol dire? Vuol dire che i BTP vanno al 19-20, certo, ma vuol dire che anche il tuo mutuo va al 19-20, vuol dire che anche tutti i prestiti che hai in essere salgono se sono a tasso variabile, e vuol dire che tu paghi come Stato, invece che l'attuale 1,22% lordo su un debito a 10 anni, che è il minimo storico, inizieresti a pagare, vogliamo usare l'esempio russo? Il 18%, vogliamo dire la metà, il 9%? E ti sembra poco pagare il 9% sul debito rispetto all'1,20? Scrive sempre Grillo nell'insultarmi: e comunque la Banca d'Italia, essendo prestatore in ultima istanza, calmierà i tassi. Qui siamo al delirio. Cioè, non è mai successo nella storia economica che bastasse, anche la Banca Centrale d'Argentina era prestatore in ultima istanza, anche la Banca Centrale Russa è prestatore in ultima istanza, ma questo non vuol dire che gli investitori non portino i soldi fuori, non vuol dire che non si è obbligato a aumentare i tassi di interesse. Ma che cosa, ma che film storico economico ha mai visto Grillo? Io non lo so. E anche Salvini, aggiungo, così non facciamo distinzioni. E poi c'è un punto che secondo me è il vero punto, perché tutte queste sono faneticazioni di chi immagina un mondo che tutte le volte che si è svalutato non è mai successo. Poi uno può immaginare, ma non è mai successo quello che dice Grillo. È sempre successo, purtroppo, che aumentassero i tassi di interesse, schizzassero i tassi di interesse, schizzassero tutti i mutui, fallissero le società che avevano debiti emessi in quella valuta, perché è chiaro che se tu hai 1 miliardo emesso in euro, vediamo cosa succede quando te lo trasformi in lire. Ma c'è un punto che mi interessa particolarmente, perché al di là del delirio su, appunto, la banca centrale che è prestatore in ultima istanza e riuscirebbe a calmierare lo spread, ma Grillo, lei se lo ricorda cosa capitò a novembre 2011, presidente del Consiglio Berlusconi? Ma chi ha calmierato lo spread italiano, che era arrivato a 550 punti e avevamo pure l'euro e la BCE dietro? Quando un mercato pensa che tu non ce la farai più, ma non c'è nessuno che possa calmierare, arrivammo ai BTP che rendevano oltre il 7% e avevamo ancora l'euro, si figuri con la lira. No, ma c'è il punto finale su cui vorrei chiudere, perché dice sostanzialmente nel ragionamento, non è l'unico Grillo, e dice: attenzione, da quando abbiamo l'euro ci siamo impoveriti, il nostro sistema produttivo è andato in difficoltà. Allora, qui sotto c'è un ragionamento veramente pericoloso, secondo me. Perché se tu pensi che un sistema produttivo industriale possa competere soprattutto grazie alla svalutazione, ti stai allineando ad andare in concorrenza con il Bangladesh, il Vietnam, l'Indonesia, neanche il Brasile. Cioè, un sistema come quello italiano non può andare in concorrenza solo perché ha una valuta che non ce la farà mai. Perché quelli sono sistemi produttivi dove il costo del lavoro è talmente basso che tu puoi avere anche un euro che vale 8.000 lire, ma non ce la farai mai. E poi, se permettete, il futuro di questo paese non è andare in concorrenza con i paesi che fanno manifattura di base a costi di manodopera bassissimi, con valute basse. Il futuro unico di questo paese è andare in concorrenza, come stanno facendo migliaia di nostre imprese sui mercati all'estero, che sono riuscite a esportare nonostante l'euro a 1,40, e andare in concorrenza sulla qualità, sul valore aggiunto. Non ce la faremo mai, ma ripeto, neanche se ci danno 8.000 lire per un euro, a competere con quelle economie. E dietro c'è il ragionamento pericolosissimo e molto anni 80, caro Grillo e caro Salvini, molto da Democrazia Cristiana e non solo, in cui per risolvere i problemi del paese È come uno che avesse un brutto problema e prende sostanze, pensa di risolvere i suoi problemi semplicemente annullando il dolore. Allora, il dolore serve. Questo è un paese che per 20 anni è rimasto seduto su se stesso, che non ha fatto le riforme, che vive sulle caste, sugli ordini professionali, sulla non concorrenza del mercato interno, sull'evasione fiscale, sulla corruzione, sulla pubblica amministrazione che non funziona, e deve riformare queste cose. È inutile pensare che se tornerà la liretta questi problemi verranno magicamente risolti. Si chiamano scorciatoie e questo paese non può continuare con le scorciatoie. Glielo dico con molta trasparenza sia a Beppe Grillo che a Matteo Salvini, visto che l'attacco arriva spesso da ambedue. Attenzione, perché proprio negli anni '80, con la logica da Democrazia Cristiana, c'è un problema, svalutiamo. Il nostro sistema produttivo ha imbarcato in efficienza perché stavano a galla anche imprenditori che dovevano scomparire. Perché se non stai stare sul mercato non serve a svalutare, vai via. E invece svaluta di qua. Intanto imbarcavamo debito, il meccanismo si incartava, l'intreccio tra economia e politica proliferava. Vogliamo tornare a quel mondo lì? Ma se lo ricorda qualcuno cosa capitò quando nel 92 uscimmo dal serpente monetario, che non era mica la svalutazione che propongono Grillo e Salvini, uscimmo banalmente da una banda di oscillazione. Fu un disastro, per 2 giorni non si riuscivano a cambiare lire in nessuna banca europea, imbarcammo inflazione a gogo, perché si dà il caso che il petrolio lo paghi in dollari, e quindi se svaluti del 50% sul dollaro te lo paghi anche il 50% in più. Ma perché non lo ricordate mai che tutte le volte che uno svaluta imbarca inflazione? Ma non noi, in tutto il mondo, è matematica. Ok, allora scusate per il tempo che ho rubato al resto del programma, ma quando leggo certe cose, al di là degli insulti di cui non me ne frega niente, qui siamo proprio alla disinformazione. Poi uno può pensare che tutto quello che vuole, ma deve ricordarsi quello che la storia, i fatti ci dicono, non le opinioni personali, se no spara una marea di cose inesatte. Are you with me? Are you with me? Di nuovo in diretta, 17:36 minuti, c'è chi addirittura consiglia la lettura di un classico della macroeconomia che si studia o si dovrebbe studiare ancora all'università, il Dormund Fischer, no? Dormund Fischer ti spiega i principi su cui si muove. Tra l'altro attenzione che il mercato valutario è quello più difficile da muovere con iniziative singole, perché contempla migliaia di attori, cioè le valute vengono scambiate a prezzi di cambio in continuazione. Per cui, ma detto questo, secondo me la cosa più pericolosa di tutto il ragionamento di chi dice usciamo dall'euro e andiamo alla lira è l'atteggiamento tipicamente italiano, e mi sorprende che arrivi da persone come Salvini e Grillo, che diciamo vorrebbero un'altra Italia, se ho ben capito, della scorciatoia, del rimedio taumaturgico, della bacchetta magica in cui diventi improvvisamente da zucca a carrozza. Quella roba lì per anni, ma c'era qualcuno che 20 anni fa faceva la campagna meno tasse per tutti e via così, è servito a qualcosa? Allora vogliamo capire che le strade per diventare seri sono, la strada per diventare seri è una sola, quella delle riforme. Guarda, la Spagna crescerà quest'anno del triplo rispetto a noi e sta riducendo di 7 punti percentuali la disoccupazione, che è altissima in Spagna, è oltre il 20%. Come ha fatto? È uscita dall'euro? No! Si è messa a fare riforme, e cioè aumentare le tasse sui ceti più abbienti, ridurre gli sprechi nella pubblica amministrazione, privatizzare un insieme di cose, rendere il mercato del lavoro, non avere un articolo 18 loro, ma renderlo ancora più flessibile, e il tasso di crescita spagnolo quest'anno va al 2,2%. Poi, se uno vuol credere alle favole, alle ricette miracolose, il che non vuol dire non criticare questa Europa. Ragazzi, è 4 anni che chi vi parla attacca Bruxelles, la gestione della BCE di Trichet, la gestione dell'Europa della Merkel. Sono state fatte un insieme di cavolate micidiali una dopo l'altra, ma non è la stessa cosa dire devi riformare l'Europa più per la crescita e dire bisogna uscire dall'euro. Dopodiché, resta sempre una domanda a cui nessuno, né Salvini né Grillo, riesce mai a rispondere: perché i greci, che sono il paese messo peggio in Europa, non hanno metà del debito europeo come l'Italia, potrebbero essere salvati dalla Russia, dalla Cina, con quel debito che hanno, 300 miliardi. Perché nemmeno i greci, che sono alla canna del gas grazie alla follia tedesca e, diciamo, germanocentrica di portare la Grecia in quelle condizioni, che non c'era nulla con l'euro, perché nemmeno i greci vogliono uscire dall'euro, nemmeno loro? Vittorio Darold, buonasera. Buonasera. Partiamo da qua, poi ragioniamo anche sulla settimana molto importante per la Grecia. Ma perché il premier Alexis Tsipras, che pure è un radicale appunto di sinistra, dice che uscire dall'euro sarebbe una follia per Atene, perché vorrebbe dire svalutare, e quindi vorrebbe dire a vedere il debito estero salire improvvisamente. Ma non è così facile. Impoverimento dei risparmi personali, un controllo dei capitali, perché tutti cercherebbero di prendere naturalmente gli euro nei conti correnti e metterli sotto il materasso, pagare l'import di gas e petrolio, di cui la Grecia naturalmente è importatore, prodotti esteri, tutto prezzi maggiorati, perdere soprattutto l'occasione di entrare nella catena di produzione mondiale dei prodotti ad alto valore aggiunto, perché una moneta forte ti spinge ad aumentare la competitività. Tutto questo, quindi, i greci non vogliono assolutamente uscire dall'euro. Se posso dire però una cosa che mi fa giocano ancora... la carta dell'Europa, cioè vogliono cambiare l'Europa, che fa schifo nel modo in cui è stata gestita dalla Germania fino adesso. Altra cosa è dire: siccome ho la febbre spacco il termometro, che è una follia, poi come la misuri la febbre? Posso dire una cosa? La cosa che mi fa più infuriare è che sia il Movimento 5 Stelle che la Lega hanno, e lo credo realmente, difendono i ceti meno abbienti ecco, sappiate che l'inflazione che un paese imbarca quando svaluta, e non c'è un caso al mondo di un paese che abbia svalutato e non abbia imbarcato inflazione, perché i beni che importi ti costano di più, a partire dal petrolio, dal gas e dai loro derivati, cioè è matematica, non bisogna ragionarci sopra, ok? L'inflazione va a colpire proprio i ceti meno abbienti, proprio le fasce più deboli, più basse, perché i ricchi i soldi se li portano fuori prima che noi si esca dall'euro, e se non ne hanno già i conti correnti all'estero, ok? Hanno dei gran consulenti che gli spiegano che cosa fare. Un conto è erodere uno stipendio da 1.500 euro e trasformarlo con un'inflazione al 10%, fargli perdere il 150 euro, un conto è far perdere il 10% per l'inflazione a uno stipendio da 15.000 euro. È diverso quando tu sei sulla soglia di povertà. Quindi chi dice di uscire dall'euro fa il danno proprio dei ceti sociali che dice di difendere. Questa è la follia del ricorso alla bacchetta magica di Cenerentola. Comunque, scusami, ti ho interrotto. No, assolutamente. Quindi il vero discorso che sta cercando di porre la Grecia è di cambiare all'interno dell'Unione Europea le regole del gioco, e regole che sono state fino adesso dettate dall'agenda tedesca, dalla Merkel, che, ma che è una follia, è stata la più furba, è perché non a caso è l'unico premier che è rimasto, certo, in piedi negli ultimi 10 anni. Tutti gli altri hanno perso la poltrona. Perché? Perché è riuscita a imporre questa agenda che prevede, primo, l'austerity, secondo, il tentativo di migliorare la competitività. Ora, questi due elementi sono naturalmente importanti, perché la Grecia ha combinato gravi responsabilità, perché aveva deficit del 15% all'anno, quindi ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità. Ma detto questo, a un certo punto, se non hai crescita, perché il PIL greco si è ridotto grazie proprio a questa spinta dell'austerity, conto, del 25%. Ma si riesce in un paese normale a distinguere tra la cioccolata e qualcosa che gli assomiglia? Cioè, un conto è dire che tutta la politica impostata dalla Germania dal 2010 in poi nei confronti della Grecia e dei paesi è stata fallimentare, tanto i tedeschi non lo riconosceranno mai, sono ancora lì che pensano, come ha fatto un pilota della Lufthansa, a non passare i controlli, non ammettono nemmeno quello, non lo ammettono mai, è stata disastrosa. L'austerity ha messo in ginocchio i paesi con le strutture più deboli, non gli ha dato il margine per fare le riforme senza aver l'acqua alla gola, sta facendo vincere i movimenti, diciamo, più estremi, ok? Quindi il risultato è disastroso, e l'Europa è l'unica area geografica, geoeconomica che si è ripresa meno degli altri, perché i tedeschi non volevano neanche il quantitative easing di Draghi, l'ha dovuto imporre Draghi da solo. Se era per loro, stavamo ancora con austerity, tassi di interesse alti e sto cavolo di inflazione, tutti a pagare per la Repubblica di Weimar e Hitler in Europa. Altra cosa è dire che la colpa è dell'euro, va bene? Perché, ripeto, attenzione, stai facendo un'operazione da questo punto di vista criminale nei confronti dei ceti più deboli, perché i risparmi tutelati e l'inflazione bassa tutela proprio gli stipendi più bassi. I ricchi non avrebbero nessun problema, i ceti alti, chiamateli come volete, se arrivasse la lira. Tanto quelli sono già in franchi svizzeri, restano in euro, portano i capitali fuori, come hanno fatto i ricchi greci. Ma volete guardare quello che sta capitando in Grecia e chiedervi perché i greci poveri non vogliono la dracma? Perché hanno capito che sarebbe l'ennesima fregatura sempre per i ceti più deboli. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu. Mettele insieme che accade laggiù, bibidi bobidi bu. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu. Fa la magia, tutto quel che vuoi tu, bibidi bobidi bu. Con salagadula puoi. Oh, al di là della bacchetta magica della zucca della carrozza, giustamente in regia ce ne sono. La stanno sottolineando, invece parliamo di cose reali, non fantastiche, immaginifiche o immaginarie, le scadenze greche, c'è questo giro delle capitali mondiali tra Varoufakis e Tsipras, hanno garantito che loro ce la faranno a pagare i 460 milioni di debito al Fondo Monetario in settimane, poi c'è un'altra tranche sempre per quello che riguarda la Grecia, sono due le tranche, la prima appunto 460 milioni il 9 aprile e poi c'è una tranche, domani vanno in asta titoli semestrali per 875 milioni, poi il 14 aprile un altro miliardo, il 17 aprile un altro miliardo e 4, insomma sono due settimane belle pesantine per la Grecia. Sì, esattamente. Un po' complicata la situazione da quando il braccio della vigilanza della BCE, quello che adesso controlla le 130 banche più importanti, sì, del continente, ha chiesto alle banche greche, alle quattro maggiori banche greche, di non aumentare il numero di bond greci che sono in loro possesso, perché questo renderebbe, diciamo, la loro capitalizzazione meno solida. Questo è un elemento che rende pericoloso anche semplicemente quel piccolo rinnovo da 1,4 miliardi di treasury bill greci che sono a 26 settimane, quindi sono veramente a breve, e tutto questo renderebbe ancora più complesso. Ecco perché probabilmente Tsipras è andato a Mosca, dove chiederà o una riduzione del gas, e questo è forse la cosa più semplice da ottenere, una piccola deroga per importare un po' di kiwi, pesche e altri frutti, che in realtà lì dietro c'è naturalmente il tentativo di rompere l'unità europea, certo, sulle sanzioni, questo è il vero obiettivo di Putin, e magari farsi comprare un po' di questi bond. Tutto questo, allora, la situazione è ancora una volta la solita, riforme in cambio di prestiti. Le riforme che ha presentato il ministro delle finanze Varoufakis oggi, secondo fonti appunto europee, vanno ancora nella direzione sbagliata, cioè mancano ancora quelli più impopolari, cioè la riduzione delle pensioni e ancora una volta una maggiore flessibilità per alcuni aspetti del mercato del lavoro. Ora su questo probabilmente il possibile compromesso quale sarà? Di rinviare a tempi magari migliori queste riforme più indigeste al governo greco e intanto però cominciare a dare una prima tranche e a modificare quella su corruzione e riscossione delle imposte. Però per concludere, anche tu sembri ritenere che la visita di Tsipras a Mosca sia un po' di tattica politica per far dire attenzione che noi abbiamo sempre la Russia e eventualmente la Cina se ci rompete troppo le scatole, ma di concreto abbia poco, nel senso che un po' di forse di sconto sul gas in cambio di un po' di export alimentare, tattica negoziale. Are you with me? Are you with me? Di nuovo in diretta, allora la borsa ha chiuso e ha chiuso in rialzo assolutamente in linea con il resto d'Europa, più 1,70% in Milano, meglio anzi di Parigi, più 1,5%, Francoforte più 1,30%, identica a Londra, più 1,70%, gli Stati Uniti più 0,50%, l'euro a quota 1,08%. E i titoli oggi tutti positivi, devo dire, alla riapertura del listino, tranne Fiat Chrysler meno 1%, Pop Emilia Romagna meno 0,50%, Ansaldo meno 0,20% come Pirelli, Saipem la più forte, più 6,70%, e qui di nuovo ci sono voci di cinesi. Chissà che shopping, scusate se apro un inciso di un secondo sul tema euro-lira, già adesso ci lamentiamo che gli stranieri vengono a fare shopping a prezzi di saldo in Italia, ma vi immaginate con la liretta come si porterebbero via le aziende a due lirette, appunto, i grandi fondi di investimento stranieri? A me adesso le pagano in euro, fermo restando che molte di queste aziende sarebbero già fallite perché hanno i debiti espressi in euro e li devono pagare a finanziatori stranieri che rivogliono i debiti in euro. Hai voglia quando ti va al 50% in più? Comunque vabbè, siamo in mano ai demagoghi. Sai, vale anche per Renzi, lo dico a chi scrive: critichiamo il Presidente del Consiglio, abbiamo appena ricordato che la diminuzione della pressione fiscale la vede solo il governo, perché l'Istat ci ha ricordato che è aumentata anche nel 2014, quindi non c'è nessun problema a criticare il governo e la sua agenda. Boh, la riforma del Senato più urgente della riforma fiscale a noi non ha mai convinto, per esempio, o della riforma della pubblica amministrazione non ci ha mai convinto, così come abbiamo ritenuto che fosse un errore cacciare Cottarelli, se, commissario alla spending review, senza mettere qualcun altro se non la settimana scorsa, e mandando a babbo morto tutto il tema della spending review. Adesso scopriamo che il governo si aspetta 10 miliardi. Comunque, Eleonora Micheli, Radio Colli, Sole 24 Ore, bentornata, buonasera. Buonasera. Saipem, la vogliono i cinesi? Ma Saipem, diciamo che oggi sono andati benissimo tutti i titoli petroliferi, non solo in Italia ma in tutta Europa. Il sottoindice del settore ha messo a segno un progresso del 4%, visto che il valore del greggio è tornato sopra i $50 al barile. In più, per quanto riguarda Saipem, va detto che la scorsa settimana, proprio appunto sulla borsa praticamente chiusa, è stato reso noto che l'azionista Eni proporrà all'assemblea dei soci la nomina di Stefano Cao, amministratore delegato. È una nomina che piace molto al mercato, visto che il manager conosce veramente bene l'azienda, se non altro perché ci ha lavorato dal 76 al 2000 e si è fatto le ossa proprio in Saipem prima di passare all'Eni, dove poi è stato defenestrato nel 2008. Quindi appunto su queste basi il titolo ha letteralmente messo le ali e è salito del 6,7%. Ecco, molto forte oggi anche Tenaris, più 4,4%. Poi una pattuglia di energetici, penso a Eni, più 3,80, A2A più 4,25, Enel più 2,1, come Enel Green Power. Sì, esatto, è stato proprio in questo caso il prezzo del valore del greggio che ha messo un po' le ali a tutto il comparto, Eni in primis, che ha messo a segno questo più 3,8%. Del resto, se la scorsa settimana il greggio si attestava sotto i $50 al barile, nei giorni scorsi è rimbalzato fino a $55, anche in questo momento tutto sommato continua ad andare su, fa più 1,6%, attestandosi a $53 al barile. Ancora, per quello che riguarda i titoli, oltre appunto a Saipem e agli energetici, c'è Fiat che perde, ma lì se ho ben capito c'è anche la notizia di una causa persa in Georgia, però insomma c'è l'ipotesi che possano arrivare altre cause per il gruppo Fiat Chrysler Automobiles? Esatto, innanzitutto la Corte della Georgia ha stabilito che Chrysler debba pagare $150 milioni a una famiglia americana che ha perso un bambino in un incidente del 2012 a seguito anche di un incendio della Jeep provocato da un difetto dell'auto. Però sembra peraltro che siano ben oltre 70 le morti causate proprio dallo stesso difetto, quindi a questo punto sicuramente FCA cercherà di andare in appello, ma se dovesse ancora una volta essere confermato il risarcimento chiesto dalla Corte della Georgia, ovviamente è facile presagire che fioccheranno nuove cause contro l'azienda. A quel punto l'entità del risarcimento dei danni diventerà veramente consistente. Ancora per quello che riguarda i titoli, abbiamo G-Tech, adesso è quotata a Wall Street, è entrata Ansaldo STS, se non ricordo male, no? Sì, che oggi tuttavia ha perso lo 0,2%, d'altra parte era già salita nei giorni scorsi e come spesso avviene in borsa si vende sulla notizia nel giorno appunto in cui è entrata, non è che ha reagito, anzi è andata addirittura in controtendenza rispetto al FTSE MIB. Tra i titoli, si diceva appunto di Ansaldo STS piatta, c'è tra i titoli più sottili invece notizia per Mayer Tecnimont, più 8,28%. Sì, in questo caso il mercato premia la società perché ha raggiunto un accordo con una società dell'Azerbaigian per costituire, per realizzare un impianto da ben 350 milioni di dollari, di euro, 350 milioni di euro. Si tratta di una commessa consistente per la società e dunque è stata premiata con quest'ottima performance. Ancora per quello che riguarda i titoli migliori e peggiori, vediamo un attimo, negativo oggi anche la Popolare Emilia Romagna, meno 0,50, tra chi è andato bene segnalo Tenaris più 4,45, Azimut più 4,20, poi Mediolanum più 3,20, Ubibanca più 2,40, gli energetici li abbiamo già dati, Telecom più 2 come Prismian, l'Expir e l'Icavi. E la Popolare di Milano più 2%, Snam anch'essa più 2%, Ferragamo più 1,70%, Monte dei Paschi più 1,60% come Mediobanca. Tra l'altro oggi è arrivata anche la notizia che il gruppo Dufry, quello che acquisterà World Duty Free, dovrà pagare una penale da 100 milioni di euro se non procederà più all'acquisto. Questa non è la vicenda di cui ci siamo occupati. Volete sapere quanto è l'euro? È 1,08 e perché non crolliamo? Visto che comunque ha perso il 30% del suo valore, perché un conto è far perdere il 30% del valore a una valuta che garantisce i nostri risparmi, un conto è svalutare, cioè prendere un'altra valuta. L'euro ce l'abbiamo tutti, non ce l'ha solo l'Italia. Ok, i tassi di interesse non sono nostri, sono quelli della BCE, per cui noi restiamo in questo meccanismo ed è chiaro che, anzi, se l'euro si indebolisce nei confronti del dollaro è un bene, perché il 50% del nostro export in Europa resta uguale a prima, ma l'altro 50 va fuori. Altra cosa è uscire unilateralmente dall'euro e decidere che facciamo la valuta Grillo-Salvini che vale la metà dell'euro, ok? A quel punto le conseguenze sono note, non bisogna essere un mago. Vai a vedere cosa è successo ai paesi che da soli hanno svalutato rispetto a tutte le altre economie. Ancora per quello che riguarda i migliori e peggiori, li diamo velocemente: Neurosoft più 29, Industria e Innovazione più 20, Valsoia più 13, Premuda più 12,5, KF più 12, Saras meno 3,81, Clabo meno 3,70, Sogefi meno 3,30, Media Contact meno 3,13%. Adesso c'è il GR 24, poi parliamo dei ritardi, dei costi dell'Expo e di quello che deve cercare di fare il governo, che dice insomma non ci saranno le clausole di salvaguardia, ma noi personalmente non abbiamo ancora capito come farà a tagliare 10 miliardi di spesa pubblica da qui, diciamo, all'anno prossimo, perché le clausole se no scattano al 1 gennaio 2016. E che scrive Renzi: meno tweet più decreti attuativi. Va bene, sono d'accordo, meno tweet e più decreti attuativi. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso dell'Expo e poi del documento che il governo presenterà venerdì. Oggi alcune dichiarazioni del premier Matteo Renzi sul tipo di manovra, documento economico finanziario. Però avevamo lasciato la collega del Sole 24 Ore Sara Monaci venerdì sul tema di Palazzo Italia, o meglio il Padiglione Italia, che comprende anche il Palazzo Italia. Sara, buonasera innanzitutto. Sera. Allora, ieri ci sono state delle dichiarazioni del commissario all'Expo, Giuseppe Sala, che ha visitato il cantiere assieme al sindaco di Milano, Pisapia. Ha detto, per quello che riguarda gli extra costi, ci saranno solo sulla parte italiana, perché rispetto al budget che mi era stato assegnato chiuderemo con un investimento inferiore, e poi ha detto che c'è un buon recupero sul Cardo, preoccupa di più il Cardo Sud. Sentiamo questo passaggio di Sala. C'è un buon recupero sul Cardo, quello che preoccupa di più è il Cardo Sud. Sul Cardo Nord, Unione Europea, il padiglione del vino, eccetera, eccetera, sono già al lavoro all'interno sugli allestimenti, sulle macchine da qualche giorno. Per cui il tema è un po' la parte sud. Avevamo due criticità: sulla carta siamo in condizioni di poter arrivare, è chiaro che c'è una vigilanza continua, comunque sulla carta i progetti sono stati rivisti per poter arrivare per il 1° maggio. È abbastanza fiducioso anche il sindaco di Milano Pisapia, parla di ottimismo, della ragione, della passione, della volontà, sembra un po' De Gregori, però insomma, sentiamo. Sono stati fatti grandi e importanti passi in avanti. I padiglioni sono quasi tutti pronti, alcuni sia all'interno che all'esterno. Sul padiglione Italia posso dire, con la cautela che richiede chiaramente ogni valutazione, che è molto più di un'impressione, sia all'esterno che all'interno si vedono i passi in avanti, i miglioramenti. Direi che ci sono anche delle novità che non avevo visto e che mi fanno veramente dire che sarà Expo Milano 2015 sul sito e fuori dal sito un grande evento. Allora, al di là delle dichiarazioni, Sara Monaci, il tema venerdì, e penso che non sia molto cambiato, riguardava gli extra costi, ossia il padiglione italiano sarebbe dovuto costare 63 milioni di euro, il costo è lievitato a 93 milioni, che fa il 50% in più. Secondo Sara deriverebbe dalla modifica degli spazi espositivi e che secondo sempre Sara all'inizio aveva un rapporto illogico tra quelli dedicati all'Expo vero e proprio e quello dedicati agli uffici. Poi sì, c'è stato... Prego, vai, sono Sara. State vari aggiustamenti in corso d'opera. Il primo fondamentale, Palazzo Italia è cresciuto più del previsto, ma soprattutto i lavori sono iniziati tardi, perché ricordo che la prima pietra di Palazzo Italia è stata posata appena un anno fa, quindi con un Expo vinto nel 2008, varie discussioni per i terreni, insomma tra una cosa e l'altra i lavori sono arrivati a essere iniziati veramente molto tardi. Un anno prima sarebbe stata sufficiente a portare a termine i lavori con tranquillità ed era effettivamente possibile, cosa che però non è stata fatta. Sul Cardo, che ricordo è la strada maestra che taglia in modo trasversale il sito espositivo sul lato corto, diciamo quello verticale se guardiamo una cartina, e che fa parte sempre del padiglione Italia, lì sono predisposti tutta una serie di padiglioni, definiamoli così, di spazi espositivi minori dedicati ad alcune produzioni specifiche, l'olio, il vino, alcuni spazi tematici. Ecco, su questi veramente i ritardi si erano così tanto accumulati che sono state necessarie forti varianti e semplificazioni, tanto che appunto abbiamo sentito adesso Sala dice sul Cardo Sud, quindi la parte a sud di questa serie di padiglioni, abbiamo ancora oggi dei dubbi. Certo, è chiaro che i vertici rassicurano. Pisapia, ricordiamolo, al lato ha anche un'esigenza un po' politica tutta sua, quella di dimostrare, nonostante aver anticipato che il prossimo anno non si candiderà, dimostrare ancora di avere una presa su quanto avviene in città, quindi il fatto che ieri sia uscito con Sala è anche un po' dovuto a questo. Certamente i problemi ci sono, la questione degli extra costi è dovuta al fatto che si è dovuto lavorare velocemente, quindi appunto avendo un anno soltanto a disposizione e con tante varianti in corso d'opera dovute al fatto che i ritardi dovevano essere colmati in qualche modo, e ancora oggi ci sono molte incertezze sul fatto che tutti i lavori possano essere completati, ecco, o quantomeno tutti verranno sacrificate le parti ritenute meno indispensabili. Ecco. Allora, a quello che risulta a noi, al di là dei 6.000 operai attivi giorno e notte, per quello che riguarda i tornelli sono già stati posati tutti i circa 400 tornelli agli ingressi, le piante sono state sistemate nel 95% dei casi, nel canale scorre l'acqua e nei padiglioni di alcuni paesi, Kuwait, Qatar, Oman, Svizzera, Germania, Giappone, tra questi è già presente il personale che viene poi formato. 4.000 bagni sono già pronti, 2/3 dei quali per le donne, e invece i ritardi sui biglietti, 9 milioni di biglietti prevenduti, si punta a 10 milioni entro il 30 aprile. Stavo dicendo una cosa, per quello che riguarda invece i ritardi, a noi risulta che a essere più in ritardo di tutti sia il padiglione italiano. Sono quattro paesi che hanno un ritardo tale da far sospettare che non arriveranno. Russia, nemmeno Estonia, Turchia e Nepal. Esattamente, di cui abbiamo scritto pochi giorni fa. Sì. Detto questo però è molto diverso, no? Perché il padiglione Italia è il palazzo simbolo dell'Expo. Detto questo, chiaramente anche mentre le altre sono strutture non permanenti, quindi temporanee, per lo più piccole, con strutture anche mobili. Il Palazzo Italia è una struttura che in prospettiva dovrà rimanere e dovrà ospitare anche il museo dell'innovazione o di quello che sarà ancora discussione in ballo. Detto questo, quindi è vero che è una struttura più complessa, allo stesso tempo è anche l'opera simbolo di questo Expo, è quella fatta dal paese che ospita tutti gli altri, quindi il ritardo rimane anche molto più evidente. Insomma, se poi l'Estonia non aprirà il 1° maggio, aprirà il 1° di giugno, un po' possiamo anche dire pazienza, è un po' così in tutti gli Expo. Se Palazzo Italia rimane rimanesse con gravi lacune, la cosa sarebbe molto più visibile anche agli occhi del BIE che ha assegnato l'Italia l'Expo. Detto questo, si farà, diciamo, di necessità virtù, si toglieranno gli uffici, perché è vero che poi molti uffici dovevano esserci in spazi forse troppo ridondanti rispetto alle necessità, probabilmente verrà sacrificato anche qualche spazio del ristorante alla parte superiore, e poi probabilmente anche qualche elemento decorativo che per gli architetti, e questo è il tema di dibattito di oggi, è invece considerato importante ai fini del diritto d'autore. C'è tutto un dibattito, infatti, sì. Okay. Per cui i progettisti e l'architetto Molè, che ha firmato l'opera, e Dante Ferretti anche, ho visto. Sì, esatto, quindi dicono: la mia opera è tale solo se viene completata, visto che i ritardi sono colpa della politica di Expo e non miei, io sono pronto a disconoscere l'opera. È chiaro che in questo dibattito così estremo c'è anche una discussione che poi verrà sanata da degli esosi assegni, per cui magari compensando i ritardi o i diritti d'autore che gli architetti lamentano, anche semplicemente delle varianti che potrebbero essere fatte in seguito, ecco, allora a quel punto magari il dibattito teorico sui diritti d'autore potrebbe essere sanato. Detto questo, è sempre un contenzioso in più che è figlio di un ritardo che sta a monte. Ora, esatto, per essere precisi, perché e poi ognuno si assumerà le sue responsabilità e vedremo cosa capiterà, però è chiaro che la corsa fatta nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, è figlia, e quindi anche gli errori che alcuni contestano. Dante Ferretti, 3 volte Oscar, ha detto: sconcertato e arrabbiato per il mio progetto sulla viabilità è ancora fermo, mi avvarogliano in mezzo legale. Il fatto appunto che alcuni padiglioni, sai, capisco la Russia con i problemi che ha, il Nepal, per carità, però il problema vero è il padiglione Italia. Sì, però attenzione, per non avere sempre la memoria breve in sto paese, ricordiamoci di come e perché si perse tempo, ma tempo vero, anni. Allora, il primo commissario per quello che riguarda l'Expo fu l'ex ministro Lucio Stanca, che ricordiamo per le cronache soprattutto per la polemica su dove fosse la sede ufficiale dell'Expo. Lui la voleva Palazzo Reale, e anche lì non fu una gran polemica, ecco, non molto costruttiva né dal punto di vista dei cantieri né dal punto di vista morale. Poi tutta la querela che oppose l'allora sindaco di Milano Letizia Moratti e l'uomo da lei segnalato, che se non ricordo male era Glisenti, con l'allora ministro dell'economia Giulio Tremonti, e insomma un braccio di ferro su che cosa fare dei terreni e come comprare questi terreni. C'è tutto un tempo perso per, diciamola tutta in senso lato, lotta di potere che nulla ha portato alla costruzione. Poi arrivi in ritardo e giustamente adesso Sala si beccherà le sue responsabilità, però ricordiamo la storia per com'è andata fin dall'inizio. Grazie, temo che ci risentiremo, Sara Monaci, o magari me lo auguro, perché faremo un bellissimo collegamento in cui tutto sarà pronto a partire dal Palazzo Italia negli ultimi giorni. Grazie Sara Monaci del Sole 24 Ore. Clausole di salvaguardia che abbiamo disattivato, quindi non sono 18, sono 21, ma diciamo che per fare un conto pari sono 18 miliardi, 10 miliardi del bonus 80 euro e 8 miliardi e le misure legate innanzitutto al costo del lavoro, ma non solo al costo del lavoro. Quindi nel 2015 gli italiani pagano 18 miliardi di tasse in meno, Il DEF va su questa linea, prosegue su questa linea, procede su questa linea, non avendo ulteriori riduzioni di tasse. Possiamo dire che le tasse non aumenteranno e che la discussione sull'eventuale ulteriore riduzione di tasse proseguirà per la legge di stabilità del 2016. Se riusciremo, se saremo in condizioni, ridurremo le tasse nel 2016. Ma quelle del 2015 sono i 18 miliardi che abbiamo già detto. Questo lo dico perché se leggete i giornali di oggi c'è scritto che noi stiamo facendo una manovra da 10 miliardi di euro, che stiamo facendo tagli, che stiamo aumentando le tasse. Tutte queste cose stanno nella categoria delle frasi false. Allora, mettiamo i puntini sulle i anche con Renzi. È corretto quello che dice il Premier, nel senso che la manovra per il 2015 già prevede alcune riduzioni fiscali, la conferma di 80 euro e poi riduzione dell'IRAP in parte e decontribuzione per i neoassunti a tempo indeterminato dal 1 gennaio. Però, caro Presidente del Consiglio, oggi siamo partiti con un clima poco pasquale, diciamo. Però non siamo noi, non è l'opposizione a dire che le tasse sono aumentate, è l'Istat che nel rapporto sul 2014 dice che la pressione fiscale rispetto al PIL è cresciuta di uno 0,1 rispetto al 2013. Per cui il problema vero è che il governo può aver ragione se guarda quello che fa lui, ma nel momento in cui tu vai a tagliare i trasferimenti a regioni e comuni e dai la possibilità di andare sulle aliquote addizionali, il problema che cerchi di eliminare dalla porta principale ti rientra dalla finestra degli enti locali. Comunque, così il Premier sulle tasse ha detto che sul 2015 la crescita viene stimata e confermata allo 0,7% pur se si è prudenti, e che sulla voluntary disclosure, sull'incasso della voluntary disclosure, loro hanno previsto in finanziaria un euro giusto per avere poi eventuale tesoretto dall'incasso, che dovrebbe ovviamente essere superiore. La voluntary, secondo voi, quanti soldi potrà portare? C'è chi dice un miliardo, chi dice due, chi dice cinque. Lasciamo stare. Sapete quanto abbiamo messo noi in legge di stabilità? Un euro. Perché vogliamo essere prudenti, perché preferiamo avere, non dico un tesoretto, che è una parola che porta male, ma qualcosa da parte, anziché spendere subito tutto ciò che è spendibile. Allo stesso modo sulla crescita, avete visto previsioni che superano anche l'1%, noi abbiamo una crescita prevista dello 0,7. Perché anche le misure sulla, e finisco davvero, sulla clausola di salvaguardia del 2016-2017 dipenderanno dalla crescita che si realizzerà. Noi abbiamo clausole di salvaguardia nel 2016 più o meno per 1% di PIL. Di questo immaginiamo, stando prudenti, che 0,4 già saranno coperte dalla riduzione degli interessi e dall'aumento della crescita. È del tutto evidente che se la crescita sarà più alta avremo dei margini migliori, se la crescita sarà più bassa dei margini peggiori. Allora, Dino Pesola del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Dunque, Dino, era immaginabile, era già nell'aria che il Consiglio dei Ministri di oggi avrebbe rinviato, diciamo, a venerdì, cosa che ha fatto. A me sembra che di tutto quello che il governo poi deve portare a Bruxelles, perché ricordiamo che poi deve portare a Bruxelles il nuovo documento economico finanziario per fare capire a Bruxelles perché non scatteranno le clausole di salvaguardia, cioè quelle cose che in automatico scattano se non riesci a tagliare come hai promesso. Si tratterebbe di 16 miliardi di maggiore IVA e forse accise dal 1 gennaio. Dicevo, a me sembra che la cosa più più delicata sia proprio da dove arrivano i tagli alla spesa, perché ne ha quantificati per 10 miliardi Renzi. È assolutamente la cosa più delicata, è l'impegno più grosso che il governo oggi mette nero su bianco nel documento di economia e finanza, perché fare 10 miliardi di tagli, addirittura si ipotizza di farne addirittura 12, ma insomma è una scommessa non da poco, anche perché quest'anno, lo ricordiamo, si era partito da ben altri obiettivi e poi alla fine non si è arrivati oltre i 7 miliardi e mezzo, di cui 5 e 2 a carico delle regioni e degli enti locali. Quindi alla fine il problema di fondo è ci giochiamo questa partita, certamente l'obiettivo è importante e coraggioso, però se primo non si fanno i tagli e secondo soprattutto se le riforme che sono state annunciate sulle quali il governo si gioca buona parte della credibilità della propria strategia di politica economica, perché poi intende avvalersi di una delle clausole di flessibilità europea che si attivano proprio per quei paesi che quelle riforme le hanno effettivamente realizzate. Allora, riforme, maggiore crescita, si punta a ottenere poi risparmi sul fronte degli interessi, si mette insieme questo, come dire, bel pacchetto confezionato, lo si manda a Bruxelles e va benissimo. Il problema poi è farle queste cose, cioè fare 10 miliardi di tagli, ammesso che i risparmi dal fronte interessi ci siano, ma quello, come dire, non è merito del governo ma di altri. La partita vera a quel punto la si sposta sul fronte delle riforme, perché il governo si accinge a chiedere una maggiore flessibilità, il che vuol dire più tempo a disposizione, ma se quelle riforme poi non le fai, lo ha detto Draghi 2 settimane fa in Parlamento qui a Roma, quei paesi che poi alla fine del percorso dell'iniezione di liquidità europea tornano, a lui ha detto, alla casella di partenza, come nel gioco dell'oca. E quindi certamente, come tu dicevi, è la scommessa della spending, questo sicuramente, ma non solo, io direi la scommessa della spending è quella delle riforme. E quindi, insomma, non sarà una passeggiata. Cioè, tu dici, se ho ben capito, è chiaro che il governo andrà a Bruxelles a dire: scusate, il pareggio di bilancio, cioè il deficit a zero, lo rinviamo di qualche anno. Questo obiettivamente non cambierebbe nulla per un paese come l'Italia, cioè se tu fai il pareggio nel 2018 lo fai nel 2019, 2020, è solo un problema di quando fissi la data. Avrebbe un grosso effetto invece sulla manovra e sul paese e su tutti noi, perché un conto è avere un deficit sopra il 2 anche quest'anno e avere maggior margine per esempio ridurre la pressione fiscale, altra cosa è portarlo a zero. Il problema è che se non fai le riforme poi l'Europa non te lo fa passare, e qui dovremmo aprire Dino, ma non abbiamo tempo, e poi è ancora interlocutore a tutto il ragionamento sull'agenda di Renzi, perché molti sostengono, a mio avviso anche correttamente, che tutta l'enfasi data alla riforma elettorale, per carità importantissima, ma in questo periodo forse la priorità, la corsia preferenziale, devono averla altre riforme. Esatto, poi lasciami dire un'ultima cosa anche riguardo ai tagli, perché questi tagli servono a evitare che aumentino le tasse dal primo di gennaio del 2016, e questo va benissimo. Però attenzione a come si fanno i tagli, perché se si fanno i tagli lineari, anche questi sono recessivi. Certo. E molto spesso questo aspetto si tende a non valutarlo nella sua problematicità, perché se fai tagli orizzontali su tutti i capitoli di spesa, certo, questi hanno effetti negativi sull'economia al pari dell'aumento delle tasse, e quindi per questo è una scommessa delicata, perché qui veramente bisogna fare i tagli selettivi, cioè non lineari, non uguali per tutti. Hanno un documento fatto da Cottarelli che potrebbe essere una buona base di partenza per non buttare via ogni volta tutto, no? Nel senso che è chiaro che se tu fai tagli orizzontali l'effetto è recessivo, se tu vai a levare gli sprechi o i malfunzionamenti, esatto, invece liberi risorse. Grazie per ora anche a Dino Peso del Sole 24 Ore. Da Sebastiano Berisoni, le auguri di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.